Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia con Radio Big World, con un'altra puntata per voi. Io sono Gabriele. Voglio parlarvi di un'altra pillola che per le persone è difficile da buttare giù. Ma fatemi un favore, come ho già chiesto altre volte, primo, non fidatevi, dovete guardare le cose per voi stessi. E secondo, siate sicuri che ci siano prove evidenti di quello che vi viene detto prima di crederci. Vi dico questo perché un gruppo di persone vi ha detto qualcosa e voi ci credete. Se prendete un po' di tempo per ricercare l'argomento e lasciare l'ego fuori dalla porta, arriverete alle stesse conclusioni che molti ormai siamo arrivati. Per esempio, non troverete prove dell'atterraggio lunare. Bene, perché non c'è nessuna verità in quello. Abbiamo tre persone dentro una lattina che viene sparata sulla luna, fanno un paio di giravolte prima di atterrare e poi chiamano il presidente di telefono. Poi si riparte, rendezvous per rimettersi in orbita intorno alla luna e poi verso la terra ed atterrare nell'oceano. Questa lattina con queste tre persone che hanno viaggiato per 846.000 e passa chilometri per andare e tornare da un pezzo di roccia nello spazio. In breve, non lasciate che alcune persone vi dicano che conoscono la verità senza che sia stata verificata o ci siano le prove. Le persone sono bugiarde e ingannevoli perché glielo lasciamo fare. Abbiamo bisogno di forzare la NASA, le altre agenzie spaziali e governative a dare delle prove. Il problema è che non proveranno niente e non possono provare niente. Lasciatevi spiegare un paio di cose perché un sacco di persone non ci arrivano. Il potere di essere ci dà delle scelte da fare e possono essere accettate. Possiamo credere la loro versione della realtà o possiamo avere dei dubbi al riguardo. E alcune storie possono sembrare pazzesche per molti di noi, ma ad altri danno sicurezza e motivazioni. Siamo arrivati al punto in cui che se non credi in quello che è considerato normale per tutti, allora sei fuori, non sei normale, perché secondo alcuni abbiamo già tutte le risposte e non c'è bisogno di metterle in dubbio. Anche se molti non capiscono o comprendono quello che stanno dicendo, continuano a ripeterlo perché è quello che hanno sentito per tutta la vita, pretendendo di sapere, di conoscere, perché gli è stato detto. Le stelle che vediamo ogni notte ci viene detto che sono soli, soli a trilioni di chilometri di distanza. E per puro caso, le stelle cadenti, che sembrano in tutto e per tutto uguali alle stelle che vediamo, con l'unica differenza che le vediamo passare, e ci dicono che sono pezzi di roccia e passano solo a 1 milione di chilometri di distanza. Ora, potete chiedere ai vostri amici, ma vi derideranno, o ai parenti, vi prenderanno per pazzo. Non credete a quello in cui le masse credono. Sei stupido, non sei normale, fuori di testa. Non parlo solo delle menzogne del governo, ma di tutto quello che sappiamo sulla scienza e sulla forma della Terra. È praticamente tutta l'idea che abbiamo della storia. Ora, non perdete la testa perché i satelliti nello spazio non esistono. Siamo passati dalle fiction alla realtà, dai film, dalla fantasia a cose che crediamo reali. Attenzione, non dico che le stelle cadenti o le stelle non esistono o sono finte. Dico solo che pesanti pezzi di metallo che girano intorno alla Terra non esistono. È una frode. A voi, a me, una frode che gli frutta soldi, che li fa sembrare super capaci e intelligenti. Se andiamo a pensare, un singolo lancio di un satellite può costare 426 milioni di euro. Per costruire un satellite che traccia gli uragani, oltre 186 milioni di euro. Questo senza il costo del lancio. Ora, pensiamo con la nostra testa, come possono essere così costosi? Pensiamo a quante persone muoiono di fame o di malattie che non dovrebbero più esistere, ma continuiamo a pagare il nostro abbonamento ai satellite mentre nessuno è in grado di provarlo, e nessuno lo farà. Quindi le cose sono due: A, ci fidiamo dell'uomo che non mente; B, ci fidiamo dei nostri occhi e dei nostri sensi. Io ho scelto di fidarmi di me stesso finché non mi viene provato il contrario. Non da un ragazzino con un foglio di carta che dice: certo che i satelliti esistono, sono veri, sei un coglione. Ma da evidenti fatti. Questo è quello che vi fanno credere e chiamano fatti. Dicono che ci sono all'incirca 11.100 satelliti operativi in orbita intorno alla Terra e 2.500 che non sono più operativi, ma sono ancora lì e rimangono perfettamente nella loro orbita, quando invece dovrebbero venire risucchiati dalla forza di gravità. Questo è ridicolo. Queste parole non sono per tutti, ma per chi ha la testa e gli occhi e il cervello, perché richiede poco tempo ed energie per rendersi conto che è tutta una bugia. Con cosa pensate di connettervi a internet? Con i cavi? Come facciamo dall'Italia ad arrivare ad un server in America? Con i cavi? Ci sono i cavi sottomarini? Questo da non so quanti anni, penso da quando ci sia internet. Può sembrare ridicolo, ma la realtà è la realtà. Mentre tutto quello che ci viene mostrato dallo spazio sembra sia una gigantesca frode. Pensiamoci, poniamoci domande su tutto. I numeri che ho dato sono più che altro riguardanti l'America, ma anche in Italia abbiamo un'agenzia spaziale. E quanto prende? 1,3 miliardi di euro buttati che potrebbero essere usati per le persone invece che per la fantasia e i cartoni, no? E ci aumentano le tasse, ci tolgono la sanità, siamo sempre più poveri, ma alla ricerca spaziale italiana 1,3 miliardi, così. Però togliamo i fondi alla sanità, va bene, chi se ne frega, no? Cosa, no, ci fa stare meglio avere, credere di avere i satelliti intorno alla Terra, no? Ci rende più felici, ci rende più sani. Se poi pensiamo, sempre riguardo a satelliti e alla Luna, se pensiamo che da quanti ce ne sono, guardando quando c'è la Luna piena o c'è la super luna come c'è stata quest'anno, tutti a guardare la superluna fissi, ogni 2 minuti dovremmo poter vedere passare un satellite davanti alla luna. Va bene, questo non avviene, non è mai avvenuto e non avverrà mai. Possiamo vedere passare un aereo, possiamo vedere passare gli uccelli, ma non vedremo mai passare un satellite. Ci potete stare mesi a guardare la Luna con telescopio, quello che volete, non vedrete un satellite perché non ci sono. Quindi con questo vi saluto, grazie di essere stati con noi, grazie a Radio Big World e alla prossima.